Mamma, devi stare calma, si fumo qualche canna e sono ancora sveglio quando gli altri vanno a nanna. No, non mi piace la bianca, una pussy nera, una gialla. Esco di casa una scarpa diversa dall'altra, wow. Cambio la tipa come cambio flow. Lei vuole entrare nel back allo show. Vuole nel back tutta quanta la squad. Vuole ballare, sì, con l'ula hop. Strani giochetti con il lollipop. Lasciami il numero e baby ti richiamerà. Ehi, quando vedo i paparazzi faccio un backflip. La mia tipa nuda guarda Netflix, yeah. Dentro il backwood tutta Sherwood. No sceriffo, non mi prendi, nah. Tutti ce l'hanno con me, vi voglio bene lo stesso. Puoi anche chiamarla toilette, ma esci sempre con un chess. Io se fumo divento Superman, Superman, ho una tipa che la fa Superman, Superman, torno a casa facendo il moonwalk. Mia mano tutti potrei fare l'autostop. Ho sempre gli occhi chiusi come a Tokyo. E sono sempre al cielo come un robot. Il tuo nuovo disco è un autogol. Abbraccio chi mi odia, peace and love. Quanta ne vuoi? Cinque paia. Sono un top boy. Sempre in aria. I floti ti mitraglia. Basta che poi non dici aia. Sul rooftop dell'Himalaya. Dragone, sputo faia. Ho un milione dentro una topaia. Che viaggione, buon voyage. A lei piacciono i miei dreadlocks. Quanti rapper nel mio death knock. Dovrei fare un po' di detox. Ma faccio un tiro e vado al McDo. Quanto è brutto avere tutto. Nei tuoi occhi zero fame. Estinguo rapper come il muto. Estinguo frate da un infame. Ehi, non fare così, I love you. Dove vivo il taxi non arriva più. Casa mia, baby, un ghetto showroom. Ti darò il mio cuore con la Q. Torno a casa facendo il moonwalk. Mia mano tutti potrei fare l'autostop. E ho sempre gli occhi chiusi come Tokyo. E sono sempre